Benvenuti, bentornati a Testa Croce Show da una Livorno imbiancata, tutta imbiancata di neve. E io sono Gab. E io sono Vince. E come c'è Fede alla parte tecnica? Dunque, oggi che giorno è? 2 febbraio, giusto? 2 febbraio. 2 febbraio, quindi buongiorno della marmotta a tutti. Già, speravate che ce ne fossimo dimenticati, invece no. No, io non solo non me lo sono dimenticato, ma l'ho scoperto oggi, che è il giorno della marmotta, cioè non l'ho mai festeggiato. Ma come, non hai mai visto il film con Bill Wilder? Billy Wilder. Billy Wilder, no, non è lui. Vabbè, insomma, il film, ricomincio da capo. Ah sì, la vita, l'amore e le vacche, è quello? No, no. Non è quello. Vabbè, aspetta, noi qui sì, facciamo frizzi e lazzi, sì, ma sì, dobbiamo ricordare un attimo i nostri contatti. Sì, dunque, allora, testacroceshow@gmail.com. Lo Skype è testacroceshow. E poi abbiamo il nostro blog, blog. Sempre aggiornatissimo, sì. testacrocheshow.blogspot.com, no, dove trovate i nostri podcast. C'è un articolo... C'è un articolo di recente pubblicato. Ah, giustamente. Caspita. Quindi andatevelo a vedere. E intanto, dunque, diciamo qualcosa su questo Groundhog Day, direi. Sì, sì. Intanto, giusto, se qualcuno conosce il film di cui si è parlato, ci mandi un'email, voglio sapere qual è. Mi interessa molto. Secondo me Francesco lo sa, per esempio. Roberti, tra gli altri, che è un cinefilo. Il nostro ascoltatore, sì. E cinofilo anche, fra l'altro. Sì. Dunque, Groundhog Day, allora, è una festa che si celebra appunto il 2 febbraio negli Stati Uniti e in Canada. E praticamente cosa dice la tradizione? Che se è nuvoloso, quando una marmotta emerge dalla sua tana in questo giorno, allora la primavera arriverà presto. Se è soleggiato, praticamente si suppone che la marmotta vedrà la sua ombra, si ritirerà spaventata nella tana e quindi l'inverno continuerà per altre 6 settimane. Accidenti. E non so sinceramente com'è andata oggi, però comunque pare che alcune statistiche dicano le previsioni delle marmotte degli ultimi tempi sono accurate tra il 75 e il 90%. Quindi, però meglio delle previsioni di Harold Camping. Sì, tra l'altro, meglio del meteo ufficiale, scientifico. Sì, però bisogna anche dire che è solo una previsione molto generica, ecco. Cioè è abbastanza normale che... Sì, naturalmente, naturalmente. Comunque, a parte questo, poi... Altri studi, perché ci sono degli studi su queste cose, sui canadesi fatti su 13 città dicono che negli ultimi 40 anni il livello di successo è stato solo il 37%, quindi già molto inferiore a quello che si diceva sì. Nell'altro sondaggio. Bene, cos'altro si può dire? Vabbè, che ci sono questa festa è festeggiata anche in altri luoghi, infatti ha avuto origine in Europa. Solo che in Europa si pensava che fosse l'orso a essere il veggente in questione, che faceva però la stessa azione e veniva interpretato nello stesso modo. E simili feste dell'orso pagane ci sono a Imbolc, oppure c'è anche una festa simile nel calendario celtico, celebrata il 1 febbraio. E poi vogliamo c'è il giorno di San Swithun. Non lo so, però c'è il giorno di San Swithun che è a luglio, e anche quello prevede diciamo previsioni meteorologiche. Bene, ora direi di passare all'almanacco. Chissà come andranno le cose qui a Livorno. Ci aspettano, credo, 10 giorni appunto, Russia e Siberia. Ora vorrei sapere appunto le marmotte di quest'anno. Le giovani marmotte. Cosa hanno predetto, ecco. Se qualcuno lo sa, se qualcuno di voi ha una marmotta, esatto. Sì. Anche se in realtà Groundhog significa marmotta americana, che non so quale allora, sia la differenza tra quelle. No. Però allora quella europea non funziona. Sono più grosse, secondo me, sono più grosse. Ma andiamo con l'almanacco. Andiamo allora, con l'almanacco, visto sì, che sì. Santi del giorno. Santi immagino. Del giorno, Santa Verdiana Vergine e Reclusa, San Severo di Ravenna Vescovo, San Sigiberto III, il giovane re d'Austrasia. San Trifone Martire, Sant'Agrippano Vescovo e Martire, Sant'Orso di Aosta Sacerdote. Ah, Sant'Orso, vedi, Sant'Orso, quindi, quindi sì, un po' torna. No, ma mi chiedevo più che altro il re di Austrasia. Re d'Austrasia. Ma che significa? Non ne ho idea. Cioè, esisteva un Austrasia. Austrasia, non sono neanche collegate. Asia Australe, cioè Asia del Sud, non so. Ah, giusto, giusto. Non so, poi, molto probabile. Se sapete la storia di San Sigiberto... Non è come Eurasia, no? È proprio una cosa di direzione cardinali, ecco, sì, sì, in effetti probabilmente è così. Vabbè, comunque sì, se vi chiamate Austrasio, no, com'era? No, Sigiberto, o Orso, Sigiberto. Trifone, Agrippano. No, ma appunto, scriveteci, anche, colgo l'occasione per ripetere che noi stiamo qui a aspettare i vostri suggerimenti per le notizie, no, segnalazioni. Sì, sì, se non vi ci siamo ancora stufati. Se vi arriva un'ansia, so. Esatto. Fatecela avere, il modo migliore per diffonderla al mondo è parlare, farla arrivare ai microfoni di Testa Croce Show. Anche secondo me, anche secondo me. Continuiamo con l'almanacco. Sì, bene, quindi passiamo alle morti celebri. Devo dire che non è un buon giorno per morire, ecco, il 2 no. febbraio. Io, beh, perché l'unico che ho trovato è Giovan Battista della Porta, il celebre studioso di esoterismo. Matematico, però. No? Anche matematico, però anche insomma bambino prodigio fra le altre cose. Ah. E, vabbè, oggi si dice bambini indaco o arcobaleno, stessa cosa, però no, è vero, non è la stessa cosa. Ci sono ancora anche bambini prodigio senza della scienza, okay. Diciamo, sì, riconosciuti certo. Alla scienza. Invece i nati il 2 febbraio, James Joyce, grandissimo, sì. Aldo Palazzeschi e celebrano il compleanno, quindi sono ancora vivi, Garimberti, giornalista, e Shakira. Pensate bene, un po'. Io ho trovato anche Johann Ludwig Bach, da non confondersi con Sebastian. Ma è un altro il granchio, fratelli. Sì, sì, da non confondersi col granchio della Sirenetta. Sì. Poi Ugo Betti, sì, Charles Lindbergh, avevi già detto tu, non ricordo. No. Insomma, ricordate il pilota che ha attraversato per primo l'Atlantico a bordo di un velivolo. Poi Primo Carnera, nel 1906, il campione di pugilato italiano. E dunque, poi Alice Cooper, rocker insomma, statunitense, per cui ricordiamo Schools Out, eccetera. Benissimo. Sì. Bene. Partiamo con un po' di musica? Ma perché no? Per riscaldarci. Perché no, cosa ci sentiamo? Per riscaldarci ci ascoltiamo Baba O'Reilly dei The Who. Ah, non è il nome del cantante. No. Eccoci in diretta con Testa Croce Show. Con un aggiornamento, come previsto, Francesco sa quel film da chi era interpretato, era Bill Murray. Bill Murray, ecco. Il grandissimo Peter, se non sbaglio. Peter, esatto. Peter Venkman. E vabbè, il film è diretto da Harold Ramis. Sì. Bene, sempre a proposito di cinema... su Christianity Today, un sito cristiano immagino c'è cioè la lista dei film più redentori o redentori, non fantastico. Saprei come dirlo, ho tradotto io redentori, ecco, più redentori suggerisce. più roditori anche, sì? Visto che è Groundhog Day del 2011, dunque abbiamo al primo posto Uomini di Dio di Xavier Beauvoir. Sì, recente. Poi The Tree of Life di Terrence Malick, che ho visto e vi consiglio, è molto bello. Poi Mosse Vincenti di Thomas McCarthy, The Way di Emilio Esteves, Hugo Cabret di Martin Scorsese, l'ultimo, non so se è già uscito in Italia in realtà. Non saprei. Poi Harry Potter e i Doni della Morte, pensate. Ah beh, ma non avevano parte detto seconda, che parte seconda. Ma non avevano detto che Harry Potter è un insomma un qualcosa che i ragazzi cristiani non devono guardare perché questo l'aveva detto il Vaticano, se non sbaglio. Sì, tu dici Christianity Today invece ha una invece visione trova che sia redentore. Ok, d'accordo. Redentore, anzi, giusto. Poi Soul Surfer di Sean McNamara, che è un film sul surf, però non so come... Ma Soul, sì, però. Sì, però Soul, infatti. Poi The Meal and the Cross, di Lech Majeski, mi sembra La Fattoria e la Croce, se non sbaglio. Mm? E War Horse, di Steven Spielberg. Non so se è ancora uscito, infatti non ho trovato la traduzione del titolo. E poi Courageous, Coraggioso, di Alex Kendrick. E quindi se vi volete redimere andatevi a vedere uno di questi film. Beh, vi consiglio appunto The Tree of Life, è veramente molto bello. Ok, non lo guarderò. Vabbè, ora guardatevi The Groundhog Day di sì, quello sì, Harold quello Ramis, senz'altro, sì, sì. E invece avrete sentito forse già nei telegiornali che una biologa di 71 anni e altre 38 persone sono state denunciate dai carabinieri ad Ancona, Milano, Venezia e Bari per associazione a delinquere, truffa, lesioni, esercizio abusivo della professione medica. Promettevano cure mediche miracolose a base di acque dei santuari di Lourdes e Fatima a pazienti affetti da patologie anche gravi. Ecco, le chiamano acque a luce bianca. A luce queste, bianca. Sì, queste acque mi che ricorda, derivano... sì, è la luce liquida di cui parlava il bretariano. No? Forse c'è un'attinenza, sì, non so. Comunque, appunto, dovrebbero provare con la Coca-Cola Light. Anche secondo me. L'home page del Centro delle Acque a Luce Bianca spiega che per dare aiuto alla nostra terra in un momento così particolare è necessario riabilitare e stabilizzare la nostra alleanza con gli angeli di Dio ed essere coscienti che il nostro mentale sia pieno di virtù. L'aiuto degli angeli di Dio riporta in noi potenzialità originarie, eccetera, eccetera. E hanno trovato questo... Come lo dilegui così. Ma sì, un po'. Ma perché hanno trovato questo stratagemma, un po' attinente anche con l'omeopatia. Dicono che 9 gocce di queste acque a luce bianca bastano per, diciamo, rimagnetizzare, dare queste facoltà miracolose a 1 litro d'acqua. Beh, insomma, non è molto attinente all'omeopatia. Un po' comunque... sì, perché anche lì basta una micromolecola super diluita. Ah, sì, sì, quello sì, quello sì. E invece, però, una volta che l'acqua è stata magnetizzata, tu non puoi più usarla per fare lo stesso gioco, ecco. Quindi devi comprare da loro, ecco, questo è il succo. Ah, capito. Sì, sì. Comunque, insomma, c'è stato questo... Può darti anche che funzioni, basta fare qualche tentativo e vedere come va. Ah, certo. Se qualcuno di voi l'ha provata, anzi, ce lo faccio sapere. Intanto però loro sono stati denunciati e insomma si vedrà come andrà a finire. Vabbè, ma per cosa in fondo sono stati denunciati? Per tutto quello che ho detto prima, lesioni, truffa, minimizziamo. Ci sarebbero state comunque, non scherziamo su queste cose. Ecco. Dunque, passiamo al concorsone esistenziale. Esatto, sì, la domanda di oggi. Beh, no, direi di leggere prima la risposta che ci è arrivata alla domanda della scorsa settimana. Vi ricordo, la prima domanda era chi è il diavolo, intanto, la seconda domanda era qual è il potere più duraturo al mondo, e la terza domanda era se esiste il libero arbitrio. Più o meno, sì. E alla domanda, appunto, sul potere duraturo, Francesco dice che non, si possono, è quello non è che hai non è un altro tutti i nostri ascoltatori quasi tutti i nostri ascoltatori si chiamano Francesco. Sì. Si possono fare 2 ipotesi. Uno, il Vaticano, il cui potere temporale prima di imposizione morale di precisi doveri, decime, centesime, rampogne, gabelle e bolle, poi di evasione dalle comuni pene dei mortali, dura ormai da secoli che sconfinano nei millenni. Quindi è un potere più duraturo al mondo. Esatto. 2, ma a pensarci bene vi è un potere ancora più duraturo, quello del diavolo. Lui ha cominciato un po' prima di entrare in Vaticano. Che dico? Soddisfacendo la sete di vitamine e zuccheri di fanciulle svestite nel bucolico Eden. Così si è risposto anche alla prima domanda. Il diavolo è il potere più duraturo al mondo. Sì, una bella... Fantastico, sì, sì. Direi. E è il Vaticano anche allo stesso tempo. Quindi, naturalmente. Quindi il Vaticano è l'anticristo. Questo io l'ho sempre sostenuto. Va bene. Grazie Francesco da Torino. Grazie mille. Dunque, passiamo appunto alla domanda nuova di domanda, oggi. Sì. Prego, Fede, di metterci in sottofondo una canzone. Cioè, anzi, una un brano. Canzone. Sì, beh, è un brano abbastanza mitico, ma non troppo. Comunque, è The Gnostic Tentacles. Beh, si chiama Omnidirectional Badra. Sì, sottofondo. E ci andiamo a leggere un passo dalle Upanishad. Sentite, eh? Niente po' di meno. Che. Dunque, in quel tempo il mondo era indifferenziato. Poi divenne differenziato secondo i nomi e le forme, con le parole. Ciò ha questo nome, questa forma. Ancora oggi il mondo è differenziato secondo i nomi e le forme, e si dice, ciò ha questo nome, questa forma. Egli entrò in ogni cosa, fino alla punta delle unghie. Invisibile, come un rasoio nel fodero o come il fuoco nascosto nel legno. Visibile solo nelle sue manifestazioni parziali. Nel respirare egli si chiama respiro, nel parlare voce, nel vedere occhio, nel pensare mente. Questi sono solo altri nomi per le sue attività. Chi venera l'una o l'altra di esse non la comprende, perché egli è incompleto in ciascuna. Venera come il sé, perché in ciò tutte le sue manifestazioni si unificano. Questo stesso sé è l'orma del tutto, per mezzo suo il tutto diviene conoscibile. Proprio come, seguendo le orme, si trova un animale smarrito, così tramite il sé si arriva al tutto. Chi comprende ciò ottiene fama e lode. Bene, si è parlato dunque in questo passo, fra le altre cose, dell'importanza del nome e appunto di ciò che rappresenta il nome. Allora, la domanda che vi vado a porre è proprio questa. Categorie e nomi sono una necessità o una fonte di inquietudine? Ah, però, questo quindi, è molto da ponderare, sì. Attenzione. Sì, sì. Vabbè, consultatevi Guglielmo di Occam, tutto quello che volete. La logica di Port Royal e via dicendo. Esatto, e poi rispondeteci. E vi ricordo che questa è l'ultima domanda, fra l'altro, valevole per giudicarsi per la mela morsicata da Eva. Sì. E quindi nelle prossime puntate... Quella originale, attenzione, no? Quella perché bisogna, la gente pensa magari un facsimile, no, proprio quella. Salivata, con l'impronta dentale di Eva. Dunque, ci riprendiamo con un po' di musica da questo annuncio, con un po' di musica, lasciamo a ponderare. E intanto rispondete mentre ci ascoltiamo un pezzo, guarda caso, degli Upanishad. Oh, guarda caso. Che è un gruppo insomma locale, toscano, e questo è Underscore. Sentiamo. Bentornati amici di Testa Croce Show. E soprattutto amiche. E soprattutto amiche. E dunque, ora è il momento di novità assoluta. Novità assoluta. Novità assoluta. Ricordiamo brevemente, parliamo di religioni sorte negli ultimi due secoli. Occulti, movimenti, visioni. Che abbiano qualche affinità con la religione. Con la spiritualità. Infatti questo tema di oggi è un po' borderline, ma credo che... che possa avere insomma legittimamente un posto nella nostra trasmissione, nella nostra rubrica. Ha un bellissimo nome. È un nome fantastico, poi qualcuno di voi probabilmente ha già visto negli annunci della trasmissione di oggi di che cosa si tratta. E andiamo avanti senza indugi, entriamo in questo argomento affascinante, oserei dire. Questa è una pratica per ampliare la vostra coscienza. Allora, la trapanazione cranica è probabilmente la più antica operazione chirurgica mai compiuta. Fin dal Neolitico gli uomini si sono trapanati, probabilmente si trattava di pratiche sia... Che ridi? Questo è una scelta di parole infelice, ma insomma... Vabbè, non capisco che cosa... Cosa ci trovi di così ilare? Insomma, comunque, probabilmente si trattava di pratiche sia mediche sia religiose. Una delle prime evidenze di un intervento umano in questo senso fu il teschio ritrovato nel 1860 dall'archeologo E. G. Squire a Cuzco, in Perù. I margini della ferita, chiaramente artificiale, lasciavano intravedere una ricrescita dell'osso. Il paziente, cioè, era sopravvissuto per anni all'operazione. Probabilmente erano in molti, si stima una percentuale del 60% a sopravvivere. Non direi moltissimi, però. Insomma, più di quelli che ci si aspetterebbe. Va bene, comunque, negli ultimi due anni, con Ippocrate... Che ho detto? Niente. Non ho detto vai niente. Avanti, negli esatto. ultimi 2000 anni, con Ippocrate e Galeno... La trapanazione diviene una pratica rispettabile, usata per lo più in caso di fratture del cranio. Nel corso dei secoli si ricorre alla trapanazione anche per combattere il mal di testa, l'epilessia, l'insonnia, le malattie mentali. Durante il Medioevo si pensava che diverse patologie fossero dovute alla presenza all'interno della testa di aria malsana, oppure erano veri e propri demoni a intrufolarsi nel cranio dell'ammalato. Secondo me era aria malsana. Questi demoni, no? Secondo me i demoni. Dovremmo sentire Gabriele Amort. Sì, credo. In Europa pre-cristiana, comunque, tra gli Etruschi e i Magiari, ad esempio, le trapanazioni erano altrettanto diffuse e in Europa cristiana rimasero fino al 700. Quindi una pratica a tutto tondo, però. Ed è in qualche forma sopravvissuta fino ad oggi. Infatti, è probabile che per la trapanazione moderna tutto abbia inizio con tal Cyril Henry Hoskin, che è vissuto tra 1910 e 81, che fu un idraulico irlandese. Un bel giorno, dopo essere caduto da un albero, viene contattato telepaticamente da un lama tibetano, tale Lobsang Rampa. Il lama sta morendo e chiede al signor Hoskins se può trasmigrare la propria anima nel corpo dell'idraulico. E l'idraulico, scontento della vita che conduce, accetta. Così avviene la trasmigrazione e a tutti gli effetti il signor Hoskins diviene Lobsang Rampa. Ma non ho capito il buco in testa. No, arriva dopo. Ah, capito. Arriva dopo. Fra l'altro non sapeva che era un, cioè, che era un lama animale. No, mi sa che non l'aveva capito. È un lama, è un maestro, nel senso. Dunque, a proposito sempre di queste pratiche, nel 1956 Rampa, appunto Lobsang Rampa, scrive un libro intitolato The Third Eye, il terzo occhio, nel quale racconta la sua vita quando era ancora in Tibet, quindi evidentemente era un uomo. Uno degli episodi più significativi, insieme all'incontro con gli yeti, per dire, vero, cioè tutto uscita vero nel libro, tutto vero, è l'apertura del terzo occhio, che permetterà a Rampa di vedere oltre i veli della realtà. L'operazione consiste nel perforare la fronte di una rampa, è un titolo, rampa? No, penso che sia proprio il nome del tizio. La sua fronte, sì. E inserirvi una scheggia di legno. Il libro ha molto successo, anche se i maligni sospettano che l'idraulico si sia inventato. No, impossibile. No, secondo me no, perché sono... Poi fra l'altro io credo anche allo Yeti, devo dirti questo, sì. Davvero? Sì. Non vedo perché non potrebbe esistere lo Yeti. Ma credi che Lobsang Rampa ha avuto a che fare con lo Yeti o credi che esista ancora oggi? No, non credo che esista Lobsang Rampa. Ah, ok. E questo spiega tutto. No. Comunque, una persona che ha sicuramente prestato fede a Rampa è il dottor olandese Bart Hughes, dottore tra virgolette, perché il signor Hughes non si è mai laureato in medicina, fallì per due volte di seguito l'esame di ostetricia, perse la borsa di studio e lasciò l'università. E questo qui è considerato uno dei padri della moderna trapanazione. Il suo breve saggio, The Mechanism of Brain Blood Volume, conosciuto anche con il titolo Homo Sapiens Correctus, scritto nel 62, è ritenuto una pietra miliare da tutti i suoi seguaci, cioè 5-6 persone in tutto il mondo. Ah, questo l'hai aggiunto tu. No, giuro che... che è così. No, ma vediamo tra l'altro se... Ma guarda, quando uno scrive un libro con titolo latino è necessariamente un grande... Un genio, certo, sì. Questo... No, ma infatti vediamo se molti dei nostri ascoltatori si convincono. No, infatti se... Ah, giusto. Vediamo le teorie di Vediamo Hughes. Cosa dice. Dunque, la teoria di Hughes sostiene che l'apertura di un foro nel cranio possa aumentare l'apporto di sangue al cervello in rapporto al fluido cerebrospinale. Le cose stavano diversamente quando camminavamo a quattro zampe, prima che sviluppassimo la stazione eretta che ci separa dal resto della natura. Il cervello divenne racchiuso in una struttura rigida e limitante, fatto ancora peggiore, la gravità ridusse l'afflusso dell'ossigeno e delle sostanze nutritive al cervello. La soluzione del problema per Hughes consiste nel prendere un trapano elettrico e nel togliersi un cerchiolino d'osso dal cranio. Il risultato di questa operazione sarebbe un accresciuto flusso di sangue e la possibilità per il cervello, una volta liberato, di palpitare in accordo col ritmo del cuore. Qualsiasi cosa ciò significhi, mettiamola così. Comunque, sì. La difficoltà naturalmente consiste nel trovare qualcuno che esegua l'operazione, dato che c'è penuria di stregoni e sciamani oggi. Se volete lo faccio la io. La fai tu? Ok, rivolgetevi a Gab. Una cinquantina d'euro, diciamo. Solo? Perché sono un po' schizzinoso, se no farei anche gratis. Comunque, dicevamo appunto, non trovando collaborazione, allora Hughes, neanche tra l'ottusa classe, doveva incontrarti, Gab, neanche tra l'ottusa classe medica dell'epoca, il 6 gennaio 1965, armato di bisturi e trapano elettrico, procede all'autotrapanazione. L'operazione è un successo. 10 giorni dopo cerca di dimostrare al mondo la fattibilità e l'utilità della trapanazione. Il risultato è che viene ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale universitario, dove è trattenuto in osservazione per 3 settimane contro la sua volontà. Joy Mellen, pochi mesi dopo a Ibiza, si incontra con Hughes. Hughes procura a Mellen degli allucinogeni e gli racconta la sua esperienza con la trapanazione. Nel 1966 Mellen invita Hughes a Londra. I due organizzano comizi in giro per la città, predicando a favore dell'LSD e della trapanazione. La polizia espelle Hughes dal Regno Unito. Ecco, vedi, qui subito si è riscattato, però. In che senso? No, perché appunto Mellen è un uomo di alto profilo culturale. Ma può darsi, non so. No, in ogni caso, volevo dire, non è così strana come pensavo. Ecco, cioè, alla fine è una pratica semplice, si può fare tranquillamente anche a casa. Ah, sì, ma infatti... Voi non fatelo però, ecco, a casa, appunto, venite a casa mia. Sottotitoli, andate da Gab. A casa mia che vi faccio anche la fattura, non vi preoccupate. Ma riprendiamo respiro dopo queste rivelazioni. Sì, poi proseguiamo un po' dopo, sì. Dai. Allora, questo brano che vi faccio ascoltare è di, pensate un po', Perkins, il Anthony Perkins, l'attore di Psycho. Forse non tutti sanno che era bisessuale. Vabbè, ma questo ci interessa il giusto. Quindi si faceva trapanare. Via, non essere così... così insomma, non, no, in realtà non sei stato né escluso né volgare, però... ora no, però ebbe delle relazioni con personaggi importanti come Rudolf Nureyev, il ballerino. Però, scrisse appunto, per lui una canzone? No. No. Però appunto, forse non tutti sanno neanche che lanciò prima di diventare... Però dopo essere stato già candidato all'Oscar, però prima di recitare in Psycho e quindi poi spopolare nella carriera cinematografica, lanciò 3 album di musica pop nel 57 e 58 sotto il nome di Tony Perkins. Il suo singolo Moonlight Swim fu un successo negli Stati Uniti e raggiunse la 24esima posizione della Billboard Hot 100, 100 nel 1957. Sembrerebbe una bufala, però invece no, invece è proprio verità, vero, perché ci ascoltiamo non questo qui, ma un brano bellissimo dall'album intitolato proprio Tony Perkins, che si intitola Accident Will Happen. Ascoltiamolo. The likes of you may never be attracted to the likes of me, but accidents will happen and I'll be around. And maybe there'll be no one else but me around. For the most improbable accident, I had a lovely accident today. Eccoci tornati. Allora, stavamo parlando della... Non abbiamo detto il nome di questa religione, di questo culto. Di questo... Beh, perché... Appunto... Ah, c'era un motivo. Sì, ci arriveremo, insomma. Va comunque, bene, va bene. Allora, è una pratica. Stiamo parlando è una della pratica di trapanare la testa, insomma, il cranio. Il cranio, però, sì. Ma prima ci è arrivata una risposta alla domanda chi è il diavolo. Sentiamo. Dunque, Enrico Vasai è una risposta. E poi viene precisato che è Harry Potter, in realtà. Ah, ecco. Harry Potter, Enrico Vasai. L'ho capita un po' in ritardo. Perché okay. È colui che ogni anno attira sfiga su se stesso e agli altri. Dunque è il diavolo. Non fa una piega. Questa ce lo dice Giada dall'Umbria. Ah, ciao Giada. Dunque, continuiamo a parlare, ritorniamo a Joy Mellen, di buchi che, in testa. Di buchi, sì. Torniamo a Joy Mellen, che appunto a questo punto è pronto a compiere il grande passo. Compra un trapano chirurgico manuale e dell'anestetico. Dopo vari tentativi andati a vuoto, nella primavera del 70... Non trovava la testa. Non trovava... Esatto. L'operazione finalmente riesce. La compagna di Mellen, Amanda Felding, che l'ha anche assistito amorevolmente in alcuni dei tentativi, si accorge subito che c'è qualcosa di diverso in lui. È evidente che con il buco in testa lui ha raggiunto un più alto stato di coscienza. E quindi anche la Felding si trapana. Dunque, mentre lei opera usando un trapano da dentista, Mellen filma la scena con una telecamera. Un trash movie fantastico. Sì, l'operazione riesce al primo colpo. Amanda così descrive sinteticamente gli effetti del buco in testa. Se uno pone il livello di coscienza di un normale adulto a 0 e di un consumatore di LSD a 100, allora il livello dell'infanzia e il livello ottenibile con la trapanazione è 30 e il livello con la cannabis è da 50 a 60. Quindi è meglio la cannabis? Sì, però magari effetti meno duraturi. Il buco non si chiude tanto velocemente. È vero. Comunque, soddisfatti, Mellen e Amanda cercano di diffondere questa moda. Mellen scrive un libro, Bore Hall. Amanda un opuscolo, Blood and Consciousness. E il film dell'operazione a quest'ultima è distribuito con il titolo Heartbeat in the Brain. Il film completo però purtroppo... Battito nel cuore, bellissimo. Sì, però nel cervello, no? Quel fatto della risonanza... Sì, scusa, no, battito nel cervello. Quella storia della risonanza, del battito del cuore. Mellen e Amanda girano l'Europa e gli Stati Uniti, organizzano conferenze e proiezioni. Il film ha un notevole impatto, gente sviene guardandolo, ma nel complesso rimane alto lo scetticismo nei confronti della trapanazione. Tornati in patria nel 78, Amanda si candida per il Parlamento inglese. Il cardine del suo programma politico è la trapanazione gratuita per tutti gli adulti che la desiderino. Ottiene ben 49 voti. Penso siano tanti, quanti erano? Su 100, no? Ma no, non credo. No, vabbè, 49 voti. Un successore, dai, esatto. Bellissimo. Alle elezioni del 1983, sotto la sigla Independent Trepanation for the National Health, ottiene il 139 voti, quindi un successone proprio, ma ancora troppo pochi, ahimè, per essere eletta. Ahimè. La democrazia. Sì. Dopo Mellen, il secondo più fervente allievo di Hughes è Pete Halvorson. Halvorson vive periodi di forte depressione, prova a rivolgersi a uno psicologo, prova con gli psicofarmaci, niente da fare. Per fortuna nel 72 incontra ad Amsterdam il dottor Hughes, che ad Amsterdam, ricordiamo, dove è legale il consumo di cannabis. Esatto, anche questo è significativo. Comunque Hughes lo convince della bontà delle sue teorie e Halvorson si apre un buco in testa di 8 mm con un trapano elettrico e la depressione sparisce. Halvorson è un uomo nuovo che vive a un superiore livello di coscienza. Lui stesso ammette che, quando mi sono trapanato per la prima volta, ho pensato, e lo so che suona egoistico, ma ho pensato solo poche persone lo meritano. Bah, se dice lui. E meno male, comunque, oserei dire. Comunque, allora, col tempo però cambia idea. Halvorson, stiamo dicendo, giusto? Sì, sì, tutti devono poter sperimentare le gioie della trapanazione. Fonda perciò l'ITAG, ITAG, International Trepanation Advocacy Group, quindi questo è il nome della, e del questo culto, è il nome del movimento, sì. In una decina d'anni di attività l'ITAG pare abbia convinto almeno 60 persone a trapanarsi per diletto. Pensate. Beh, o per insomma, ottenere favolosi benefici. Esatto, soprattutto per ottenere livelli ulteriori di coscienza. Il sito è www.trepan.com, se vi interessaste. È anche facile da ricordare. Sì, alla questione. Sul sito si possono trovare articoli e aggiornamenti sugli studi da loro portati avanti sugli effetti della trepanazione. Soprattutto c'è la possibilità, se volete, di partecipare come volontari a uno dei prossimi studi. Cliccando sul link apposito si apre una finestra di Outlook con un'email intitolata "Voglio essere trapanato". Cioè, se volete, l'oggetto dell'email, esatto, è preimpostato. Sì, sì, sì. Se volete, potete. Ma c'è in italiano anche? No, è in inglese. No, okay. I want to be trapanated. Sì, una cosa del genere. Sì, no, Trepend. Sì. Okay. Dunque, una delle persone convinte, sì, dall'ITAG è Heather Perry. Heather Perry, che con l'appoggio di Pete Halvorson, appunto, si è fatta trapanare, descrivendo l'atto come un esperimento di espansione della coscienza. In Heather, l'idea della trapanazione nacque in gioventù, quando seppe che il suo idolo John Lennon aveva intenzione di operarla su se stesso. Ma è vero questo? È verissimo, sì, documentato. Questo è un notevole consumo di acido, vabbè, questo vabbè. Ovviamente sì, sappiamo bene. Sì, sì, sì. Lennon incontrò Bart Hughes manifestandogli l'intenzione di provare la trapanazione del cranio. Hughes si dimostrò favorevole. Sfavorevole. Perché, no, sfavorevole, scusa. Perché, essendo Lennon una persona creativa, temeva che le suture post-operatorie non sarebbero mai guarite. E questo non ha molto senso, infatti. Sì, non so, magari non è questo, magari temeva che andasse male, siccome era una celebrità. Essendo una celebrità, poi le conseguenze potevano qualche essere... qualche rischio ci siano in queste operazioni. Beh, l'abbiamo visto prima. Un 60% delle persone sopravvive. Ma si parlava di... È vero. Però comunque hai visto che questa gente lo fa a livello casalingo, cioè se lo fa da solo, dopo che hanno fatto uso di LSD, insomma, comunque. Volevo dire che... prima... Sì, finiamo l'argomento dicendo che... esiste un manga che è incentrato proprio su un personaggio che, grazie a un foro nel cranio, riesce a vedere subconscio altrui. Il manga si chiama Homunculus di Hideo Yamamoto. Fantastico, lo voglio, assolutamente. Tra l'altro Homunculus è il nome delle creature create perché pare che questo personaggio veda il subconscio altrui in forma di Homunculus. Ah, fantastico, veramente fantastico. Comunque volevo commentare un po', certo, questo che abbiamo letto. Secondo me, ecco, il fatto che è talmente bizzarra come cose, ci sono talmente pochi casi, in realtà non ci permette di dire se ci potrebbero effettivamente essere dei benefici a fare questa cosa. Cioè, non è così assurdo in realtà. Ricordiamoci che noi, quando nasciamo, abbiamo un buco in testa. Ah, beh, infatti loro vogliono tornare allo stato della fanciullezza. Ma può darsi, non so. Comunque non è così. No, è proprio... Noi nasciamo con un buco in testa. No, ma proprio dichiaratamente loro vogliono tornare allo stato della fanciullezza. È proprio una nuova fontanella, insomma. Una sorta di nuova fontanella. Ma per cui, appunto, chissà. Ovviamente non possiamo augurarci che ci siano più studi in questo campo, perché... Li fanno, difficile. Con i volontari, appunto. Sì, secondo il sito dell'ITAG stanno facendo studi su 15, stanno seguendo 15 trapanati. Appunto, insomma, è un po' certo, poco, però non sono grandi numeri, però. No, e poi mi notavo, appunto, un grande collegamento con l'LSD e con i profeti dell'LSD, sì, no? Si parla quasi negli stessi termini, gli stessi effetti. È vero. Soltanto che, appunto, loro cercano proprio una via fisica per aprire la mente, ecco. In modo che, appunto, sia più permanente e più a buon mercato. Senz'altro, io sinceramente, anche se ci fossero questi benefici, non procederei a questa... è una mia valutazione personale. Io penso che a livello un chirurgo esperto non potrebbe il rischio sotto lo 0,1%. Probabile, ma io trovo la mia ispirazione altrove, ecco, mettiamola così. Siamo aperti, dai. Ma guarda, io ti lascio a te l'apertura e ti lascio anche il prossimo brano. Va bene, lasciamelo. Allora, ci andiamo a ascoltare un pezzo degli Enchant dall'album Juggling 9 or Dropping 10, e questo è What to Say. bentornati amici di Testa Croce Show. Rieccoci in diretta. Soprattutto amiche, rieccoci in diretta. Ricordiamo brevemente i nostri contatti. Sì, Testa Croce Show @gmail.com. Testa Croce Show è l'account Skype da aggiungere. E testacroceshow.blogspot.com è il blog dove ci sono anche i podcast. Per ora fino alla quinta puntata. Speriamo al più presto di avere gli altri. E ci sono anche gli articoli da leggere mentre ascoltate i blog, i podcast. Come siamo monotoni, però, sempre Testa Croce Show. Vabbè, se ci arrivassero delle proposte, magari le valuteremo anche per cambiare trasmissione, no? Ma non lo so, vedremo. No, no, dagli spettatori, dicevo, se volete qualcosa per il cambiare. Assolutamente, assolutamente. Certo. Vabbè, diciamo qualche Un paio di ansia. Sì. Dunque, da Religion News Blog, ho trovato questa la domanda che è stata posta ai candidati repubblicani. Ormai sapete, io seguo le candidature repubblicane alla Casa Bianca. E dunque, chi te lo fa fare, oserei dire? Non lo so, ma perché sono uomini comunque potenti, no? Giusto. Controllano tante persone. Sapere cosa pensano fa capire cosa pensano le persone che li votano, comunque. Beh, sono tante persone, sì, secondo sì, me. Comunque. Dunque, la domanda è questa. Come sarebbe influenzata la sua politica dal suo credo religioso se dovesse diventare presidente? Dunque, vediamo, Ron Paul... Ma aspetta, è una domanda che è stata posta da un giornalista? Sì, sì, sì, è stata posta da un giornalista, sì, sì, assolutamente. Dunque, Ron Paul... Ha risposto, le mie credenze religiose non la influenzerebbero, esse influenzano la mia personalità nel modo in cui tratto le persone e in cui vivo. Invece Mitt Romney, che è il favorito, ha detto, la convinzione che i padri fondatori, quando scrissero la dichiarazione di indipendenza, stessero scrivendo un documento non soltanto temporaneo e non solo per una piccola comunità, ma davvero qualcosa che descrivesse la relazione tra Dio e l'uomo, credo sia qualcosa che un presidente dovrebbe portare nel suo cuore. Ah, però. Poi vediamo Gingrich. Poi anche Gingrich, penso che ogni presidente debba affrontare decisioni così enormi che dovrebbero rivolgersi a Dio. Dovrebbero cercare una guida, perché queste sono decisioni al di là delle capacità dei semplici mortali di decidere essendo sprovvisti del senso di cosa dovremmo fare. Siamo davvero obbligati a riconoscerlo. Se sei davvero un uomo di fede, non basta un'ora la domenica o di sabato o di venerdì. È in realtà qualcosa che dovrebbe circonfondere la tua vita, essere parte di ciò che sei. E in questo senso è inestricabilmente legato a come ti comporti. Molto americano, devo dire, come sì, ma anche molto, insomma, molto religiosa. Molto sentita, sì. Diciamo che è il candidato forse che l'ha reso più evidente. E poi c'è Rick Santorum, l'ultimo, che dice «La fede è una parte molto meno è una parte molto, molto importante della mia vita, ma è anche una parte molto, molto importante di questa nazione. Perciò, quando dici, la fede non ha nulla a che vedere con questo, la fede ha tutto a che vedere con questo. Se il nostro presidente crede che i diritti ci vengano dallo Stato, allora ciò che il governo ti dà ti può essere tolto». Invece, secondo lui, arriviamo da qualcosa di più alto. Naturalmente, naturalmente. Quindi, insomma, come notate, sono tutti abbastanza influenzati da questo e agirebbero dichiaratamente secondo questa influenza, ad eccezione forse di Ron Paul, che invece ha detto che non influenzerebbero minimamente, e quindi probabilmente è proprio quello che si sarebbe più influenzato, solo più non, furbo. Non lo so, comunque. No, perché in realtà che questa parte politica apprezza ovviamente la credenza in Dio. Allora, siamo quasi in chiusura, vogliamo dare qualche segnalazione? Perché no? Perché allora, ci sarà un seminario di psicologia quantistica a Bari, dal titolo Decido, quindi sono, modico prezzo di €890, relatore Ilio Torre, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio all'Hilton Hotel. Ecco, la psicologia quantistica praticamente permette di accedere in modo semplice ma approfondito verso la conoscenza del funzionamento del nostro cervello, di come questa potentissima macchina processa le informazioni e crea il nostro modello della realtà. E successivamente ci si addentra nelle leggi della quantistica per comprenderne come avviene la creazione intenzionale della nostra realtà. Ecco, non lo sanno neanche gli scienziati come è fatto il cervello e come... Questo è uno scienziato, probabilmente, no? Ma non lo so, comunque può darsi sì, però appunto la comunità scientifica non sa in realtà in modo perfetto come funziona il cervello. Se andranno a vedere questa conferenza, assolutamente, infatti il prezzo è assolutamente vantaggioso. Beh, insomma, per uno scienziato, per queste rivelazioni forse sì, vediamo dunque. Poi se no, a Bressanone, il sabato 4 e domenica 5 febbraio, c'è il corso di autodifesa psichica al prezzo di €247,94. Ma vogliono anche 94? Più IVA, quindi si va a 300 tondi tondi. Ecco. Con la nuova aumento dell'IVA si va a 300 tondi tondi. Dunque, il relatore è Oretta Zanuccoli, l'organizzatore è Efis Editore. Dunque, di cosa si parla? Praticamente nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, nel rapporto con i colleghi, con i nostri vicini, con gli amici, o meglio ancora, con chi non c'è amico, capita a volte di sentirci risucchiati, svuotati o con una sensazione di forte inferiorità, quasi dominati. A molte persone è capitato di uscire di casa senza avere alcuna intenzione di comprare nulla, ma poi qualche cosa ha, in qualche misura, forzato la loro volontà e sono ritornati a casa con un oggetto che non era indispensabile. Vi è mai accaduto? Beh, purtroppo la pubblicità a volte fa questo capita. Effetto, maledetto. Vi è mai successo di essere andati in un luogo per lavoro o altro e dopo vi siete trovati con un umore e un pensiero dominante diverso dal vostro, oppure di essere contaminati dallo stress? Con questo corso avete la possibilità di apprendere delle semplici tecniche per difendervi dagli attacchi psichici, siano essi deliberati o inconsci, anche con la creazione di scudi di energia. Wow! Tutto è energia, e con Feel, che è il nome di questa tecnica, imparerai a toccarla con le tue mani. Feel è una tecnica estremamente potente ed efficace, che utilizza il prana per armonizzare e trasformare i processi energetici del corpo. Prana sarebbe l'energia, no? Sì, l'energia, una parola indiana. Nell'aria. Sì, una parola indiana. E vabbè, Feel è molto più di quello che ti aspetti. Con Feel vivrai pienamente e consapevolmente tutto ciò che la vita ha da offrirti. Sarai in grado di gestire meglio le tue relazioni, il tuo lavoro, gli affetti e lo stress. Wow! E invece a Montecatini, dal 3 febbraio al 5 febbraio, ci sarà un seminario di Theta Healing. Per chi non lo conoscesse, sarebbe una tecnica che tal Vian Stibal avrebbe scoperto semplicemente rivolgendosi a Dio e poi facendo, secondo lei, guarendo il suo stesso cancro osseo. E poi, rivolgendosi a dei fisici non meglio nominati, avrebbe scoperto che questo effetto funziona quando uno è in teta, che sarebbe uno degli stati del cervello. Sì. Le onde che il cervello emana in un determinato stato di coscienza, diciamo. E comunque, in questo seminario bellissimo, ogni partecipante riceve oltre 600 sentimenti potenzianti. Approfondiamo la conoscenza dei 7 piani di esistenza, impariamo come contattare una pianta, come contattare il nostro sé superiore, come contattare un antenato e molto altro ancora. Se volete informazioni, l'email è michele35@livelive.it. Altrimenti c'è una meditazione Zazen settimanale a Cecina, in via Ticino 10, intitolata Zen People. Ogni lunedì a partire dal 6 febbraio alle ore 18. Dunque, accendere un incenso e sedersi semplicemente in silenzio nella postura Zazen. Questo è quello che dicono gli organizzatori. Nulla da fare, nulla da pensare, semplicemente seduti con se stessi, lasciando che i pensieri passino e svaniscano. Per informazioni o iscrizioni, Dojo Gyosho, lo metterò nel blog, è molto complesso da pronunciare. Lo spelling, comunque è un tipo di meditazione originaria del Giappone, se non sbaglio, sì, Zazen, sì, sì. Forse si dice. Sembra bellissimo, sembra interessante, no? E sì. È gratuito, credo. Dovrebbe essere gratuito, sì. Una volta tanto abbiamo trovato un evento. Va bene, chiudiamo qui la nostra puntata di oggi? Perché no? Ricordiamo forse le domande del concorso, così magari vi invogliamo a scriverci qualcosa. Sì, la prima è chi è il diavolo, tra l'altro... Voglio dire che le risposte che sono arrivate finora riguardano sempre esseri umani. In un certo senso, vabbè, sì. Harry Potter è un personaggio, il Vaticano è un gruppo di esseri umani. Quindi. A voler essere buoni. Sì. Dunque, poi qual è il potere più duraturo al mondo? Esiste il libero arbitrio o il destino? E poi c'è la domanda di oggi, che se i nomi sono importanti o se sono una fonte di inquietudine, sostanzialmente. Ecco. Nomi e categorie. Scrivetecelo a testocroceshow@gmail.com. Oppure parlate con noi su Skype, testocroceshow. O commentate gli articoli del blog, testocroceshow.blogspot.com. A questo punto vi lasciamo... Ringraziamo tutti voi, ringraziamo Fede che è stato con noi. Vi lasciamo a Dietro l'Angolo con Jacopo, che ci parla di band locali. Ricordiamo a tutti che il palinsesto di Radio Cage è cambiato e stasera andrà in onda Arena Top Again, no? dopo il programma di Jacopo dalle 21 alle 22. Non chiudete browser, seguite Radio Cage, una serata tranquilla di informazione e risate su Radio Cage. E noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Imagine there's no heaven. See you if you try. No hell sky.